A bordo campo di Dario Ricci. Mi ritrovo qui a bordo campo oggi con un simpatico, interessante libretto tra le mani, un opuscolo. Il titolo è Insegnare ai giovani a diventare uomini. A diffonderlo qui in Italia, Associazione Artemisia e Fiocco Bianco. Tra l'altro, questo opuscolo è un adattamento del manuale americano Coaching Boys into Men Playbook. Autori Giulia Calvaresi, Giulia Preyer, Rossano Bisciglia, Elodie Migliorini, Elena Tosi. Vicino a me c'è anche un amico di Radio 24, Andrea Zorzi. Andrea, mi aiuti a capire cos'è questo opuscolo? Ma ben volentieri, è capitato che andando, come spesso mi capita, piacevolmente in Toscana, ho incrociato Artemisia, o meglio qualcuno che lavora con Artemisia. E questo è un piccolo manuale che parla della violenza sulle donne o di quanto sia fondamentale non continuare su questa strada, però lo fa in campo sportivo. Ecco perché siamo coinvolti sia io che Giulia Preyer, che gioca a basket ed è collegata con noi. Ciao Giulia. Ciao, ciao a tutti. Giulia, come diceva Andrea, avete diffuso in Italia questo opuscolo e direi opera meritoria, perché adesso andiamo a vederne i contenuti, ma per una volta non si parla tanto ai giocatori o solo ai giocatori, si parla soprattutto agli allenatori, ricordando quello che è il loro ruolo di educatori. Insomma, va bene la lavagnetta, il gessetto per disegnare lo schema, ma chi ha in mano le redini di una squadra dovrebbe essere responsabile anche di qualcos'altro, vero Giulia? Sì, esatto. Diciamo che l'idea è nata proprio sulla base dell'esperienza che Artemisia svolge quotidianamente di formazione all'interno delle scuole, all'interno degli istituti, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo visto che le persone che possono guidare i giovani a crearsi una coscienza o comunque una consapevolezza dell'importanza della non violenza avevano anche un ruolo molto importante le figure degli allenatori. Quindi abbiamo pensato per una volta di coinvolgere loro primi, che sono delle figure di riferimento importanti per i giovani nella loro formazione, e dare un piccolo strumento loro perché possano sfruttare, capire e riconoscere qualsiasi occasione che possa essere di minimo segnale e che poi possa essere, diciamo, girata a nostro favore nel diventare un'occasione per insegnare, per far capire quanto sia importante anche nei piccoli gesti quotidiani il rispetto delle donne e capire quando anche una piccola affermazione, una frase che a volte può sembrare innocente possa invece creare fastidio o comunque una sorta di violenza, una sorta di abuso verso la figura femminile. Questo è il classico fischio che il maschiaccio fa per attirare l'attenzione di una bella ragazza, e sicuramente siamo già in un linguaggio non verbale che non va bene in questa situazione. Ma anche parlare di sport per femminucce, no Andrea, può essere già il primo passo per creare una situazione di disagio e discriminazione. Ma a volte ciò che è pericoloso è proprio l'incoscienza con la quale si fanno alcuni gesti che possono creare grande imbarazzo nelle ragazze, nelle donne anche adulte, e che non vengono percepiti come tali. Ecco perché questo manuale è così importante, perché ti indica con precisione cosa è accaduto. Io ti racconto, come spesso mi capita, un caso personale. Tanti anni fa, quando giocavo ancora, c'era un mio carissimo compagno di squadra, Jeff Stork, palleggiatore, un po' di fratello maggiore per me. Eravamo fuori ad aspettare che l'autobus si portasse nel Palasport di Treviso in una grande finale Milano contro Treviso, e qualcuno del gruppo della nostra squadra fischiò una ragazza che stava passando. Jeff, impaurito e seccato, è scappato in pullman dicendo: questo da noi è sexual harassment. E dicevo, beh, non esagerare, però questo mi è servito, pur con le dovute proporzioni, a capire che talvolta lo facciamo inconsciamente, ma occorre ricordarsi che questa cosa, se venisse fatta a nostra madre o a nostra sorella, saremmo felici. Forse questo metro di giudizio può essere applicato anche nella nostra Italia. Eh sì, è già un metro di giudizio prezioso per noi uomini, che spesso dimentichiamo questi confini. Kofi Annan alle Nazioni Unite disse: la violenza contro le donne è forse la violazione dei diritti umani più vergognosa. Essa non conosce confini né geografia, cultura o ricchezza. Fin tanto che continuerà, non potremo pretendere di aver compiuto dei reali progressi verso l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace. Impegniamoci tutti a fare tesoro di queste parole. Questo invito ci arriva da Francesco Cecco Vescovi, grande bandiera del basket varesino, general manager della Pallacanestro Varese, che ha voluto dare il suo contributo a questa guida. Francesco, allora, Quali possono essere, per tu che li hai vissuti anche nello spogliatoio, i consigli utili che un allenatore può seguire o che possiamo dare ad un allenatore per prevenire queste situazioni, per cambiare soprattutto questa cultura? Ma innanzitutto ciao a tutti. Beh, penso che il dovere di un allenatore, soprattutto se ha a che fare con dei ragazzi giovani, è quello di insegnar loro il rispetto delle regole. Così come si devono rispettare le regole in campo, bisogna farlo anche fuori dal campo. Noi quando siamo stati chiamati ad aderire a questa manifestazione abbiamo risposto subito di sì, perché pensiamo che facendo partecipare i nostri giovani, nella fattispecie abbiamo fatto giocare un'amichevole della nostra Under 19 in un comune qua vicino a Varese, appunto per sensibilizzare tutti quanti nella giornata contro la violenza sulle donne, l'abbiamo fatto perché proprio il messaggio deve partire verso i giovani, e dai giovani poi si deve propagare per tutta la società civile. Non dimentichiamoci che poi i giovani faranno parte della futura società civile, quindi è importante che loro capiscano che questi messaggi sono importanti e devono essere divulgati a tutti. Un altro dei meriti di questa guida è quello di togliere dalla confusione un po' generalista il ruolo di allenatori educatori dei nostri allenatori. Tutti sappiamo che è fondamentale educare anche dal punto di vista caratteriale e disciplinare gli atleti, però non sappiamo bene cosa fare. C'è un consiglio, tra le regole del gioco così vengono definite in questo manuale, che dice: il modo in cui si veste, si trucca o si comporta una donna non giustifica mai le insinuazioni o le molestie di tipo sessuale. Ora, molestie di tipo sessuale sono ovviamente inaccettabili sotto ogni punto di vista, ma a volte basta anche molto di meno. Basta una minaccia, basta una parola, basta insinuare. Quindi questo è un aspetto decisivo, e in questo manuale ci sono indicazioni molto precise a tal proposito. Ecco Giulia, ti chiedo, Giulia Preyer, quale riscontro avete avuto finora dalla diffusione di questo manualetto, e ti chiedo anche qual è stato il risultato ottenuto negli Stati Uniti, dove sappiamo per molti aspetti l'attenzione su questi temi è molto più elevata che da noi. Beh, indubbiamente noi, diciamo, la guida è stata realizzata e pubblicata da pochissimo, però già stiamo avendo un sacco di richieste per comunque fare noi degli interventi tramite Artemisia a spiegare anche direttamente agli allenatori come poterla utilizzare al meglio. Questo perché comunque si sono accorti che effettivamente ogni giorno si sente parlare, si vede alla televisione, tramite la radio, occasioni che possono diventare diciamo appunto uno spunto per poter parlare direttamente con questi ragazzi, aiutarli a crescere nel migliore dei modi. Già appunto l'esperienza americana ci ha insegnato che comunque sia nei vari college, nelle varie realtà che sicuramente vedono in America questo tema della violenza sulla donna ancora in maniera più forte che addirittura anche in Italia, ha avuto notevoli, diciamo, riscontri. Noi appunto siamo entrati in contatto con coloro che avevano realizzato questa guida in America, proprio perché si sono resi conto che aveva dato dei buoni risultati, e quindi tramite l'associazione e tramite la campagna che è internazionale del Fiocco Bianco siamo appunto riusciti a entrare in possesso di questo manuale, che abbiamo subito deciso di riadattare con anche, diciamo, a livello linguistico, anche perché le realtà italiane e americane sono diverse, appunto alla realtà italiana, e a diffonderla il più possibile in tutti quelli che sono gli sport, i palazzetti d'Italia, e quindi non soltanto di Firenze, dove ha sede Artemisia. Cecco Vescovi, è utopistico immaginare che in un futuro non molto lontano della diffusione di manuali di questo tipo possano farsene carico non associazioni benemerite sul territorio, ma leghe e federazioni? Cosa ci manca da questo punto di vista per arrivare a questi risultati? Ma basterebbe soltanto un po' di buona volontà, non penso sia un onere troppo grande per le federazioni o le leghe farsi carico di questa cosa. Penso che sia proprio un dovere di chi fa sport e di chi dirige lo sport farsi carico anche di divulgare così questi manuali o comunque questi consigli per fare sport in maniera così, educando, e a chi insegna a fare sport dare la possibilità di avere delle linee guida per educare al meglio. Insegnare ai giovani a diventare uomini. Questa è la guida diffusa da Associazione Artemisia e Fiocco Bianco per gli allenatori italiani. Andrea ed io siamo già arrivati all'ultima pagina di questa guida, vero Andrea? Perché sì, è una pagina veramente particolare. Sì, perché oltre a dare alcuni consigli pratici, a far rivedere con occhi diversi alcuni gesti che potrebbero essere quotidiani ma vanno stigmatizzati se necessario, oltre a invitare gli allenatori a prendersi cura anche della responsabilità di educare, e qualche volta è difficile perché occorre andare in spogliatoio e parlare di qualcosa che non è facile. È un argomento, quello dell'etica e della morale, sempre molto complesso, ma è uno dei compiti che occorre fare sicuramente con i ragazzi giovani, ma anche con le persone adulte. Quindi questa è la vera grande assunzione di responsabilità che devono avere allenatori, supportati ovviamente dalla società e dalle leghe in generale. Però in questo libricino poi alla fine si parla di promessa che diventa giuramento, ed è di questo che ne vorremmo parlare, perché non è solo un leggere, un assistere e dire sì, bravi, complimenti. C'è anche una presa di posizione personale che io e te in questo momento stiamo facendo. Assolutamente sì, anche noi ci impegniamo in questa campagna promossa da Artemisia, e allora leggiamo questa promessa. Io credo che si debba trattare le donne e le ragazze con rispetto. Io so che la violenza non è mai una soluzione o un segno di forza. Io credo che un vero uomo non debba rimanere in silenzio di fronte alla violenza sulle donne. Io credo di poter essere un modello per gli altri facendo questo giuramento. E sicuramente è un giuramento che ci vincola. Grazie a Cecco Vescovi e a Giulia Preyer per essere stati con noi, e che dire, grazie anche chiaramente ad Andrea Zorzi e a tutti quanti, anche ai nostri ascoltatori. Buona lettura a questo punto. Ciao a tutti, arrivederci. A bordo campo. Parliamo di vela oggi a bordo campo. Perché? Perché l'Italia della vela si specchia nei successi di Azzurra, un nome leggendario della nostra vela, delle nostre avventure in mare, che è tornata a vincere. Nel 1983 era stato il grande amore per l'America's Cup e le grandi prestazioni dell'imbarcazione guidata da Cino Ricci. Nel 2009 torna questo marchio storico con un successo altrettanto prestigioso nella Louis Vuitton Trophy nelle acque di Nizza. Direi il modo migliore per ricominciare a vincere nel nome di Azzurra, vero Tommaso Chieffi, che della nuova Azzurra è stato il tattico nelle acque di Nizza? Sì, assolutamente, un modo bellissimo di riniziare a scendere in acqua. Chiaramente per noi Nizza era un posto, diciamo, particolarmente consono alle nostre specifiche caratteristiche, un posto nel Mediterraneo vicino a casa nostra, però anche un posto per noi sconosciuto. Comunque, insomma, tornare dopo tanti anni con il marchio di Azzurra e tornare soprattutto con una vittoria è stata una piacevole sorpresa per tutti. Ricordo da bambino quell'estate dell'83, tutti impazziti per questa imbarcazione che nelle acque di Newport diede spettacolo, quasi mise in discussione lo strapotere americano, australiano, inglese delle grandi scuole veliche. Ma ecco Tommaso, qual è secondo te la linea di continuità, l'elemento di continuità tra quella Azzurra e questa nuova avventura? Ma senti, elementi di continuità ci sono. Innanzitutto il nostro Commodoro presidente Riccardo Bonadeo, che era all'epoca anche Commodoro presidente di, appunto, della vecchia Azzurra del 1983, per cui dopo 26 anni lui è tornato, insomma, in questa funzione di presidente, affiancato questa volta da un armatore molto giovane ma non per questo meno valente, che è Giovanni Maspero, che aveva messo insieme tutto il team, che era prevalentemente il team di Joe Fly. E poi l'altra continuità è rappresentata dal fatto, appunto, che l'equipaggio è tutto interamente italiano, per cui siamo tornati un po' a quella che è la tradizione della Coppa America, in cui appunto gli equipaggi sono nazionali, ed era una cosa che si era un po' persa negli anni, insomma, si era passati a team sempre più multinazionali composti da professionisti della vela. Invece oggi insomma si torna a questo concetto di nazionalità, che secondo me è molto bello. Direi proprio di sì. Ricordo uno degli altri effetti di quelle incredibile estate dell'83, il fatto che molte bambine nate in quell'estate presero proprio il nome di Azzurra, no? Proprio perché gli italiani si rispecchiavano in questa barca. For 132 years, the Americans had beaten all comers and held on to yacht racing's highest prize, the America's Cup. But in 1983, that streak was on the line as the American yacht Liberty lined up for the seventh and final race against the upstart challenger Australia 2. Quella dell'83 fu anche l'America's Cup della grande sorpresa. Gli australiani che per la prima volta con Australia 2 batterono gli statunitensi, e anche quella delle grandi innovazioni tecnologiche, no? Proprio perché Australia 2 presentò una chiglia rivoluzionaria. Anche in questo la Coppa America non si smentisce. La prossima edizione sarà sfida tra catamarani, tra Alinghi e Oracle, dopo una lunga battaglia legale. Dal 1983 ad oggi Tommaso Chieffi è cambiato poco oppure no, è stata vera e propria rivoluzione? Senti, è cambiato molto per quanto riguarda sicuramente la tecnologia, perché come dicevi tu prima, nel 1983 si presentò questa barca con le alette, ma se vogliamo era l'ultima di una serie dei vecchi 12 metri che poi furono messi appunto in soffitta nell'edizione 1987, corsa nelle acque di Fremantle, dove gli australiani difendevano. Si è poi passati all'attuale classe di Coppa America, che è l'America's Cup Class, che era per volontà all'epoca di Gardini e Bill Koch, doveva essere appunto il massimo che la tecnologia potesse esprimere, per cui barche più veloci, più potenti, tutte interamente realizzate in carbonio. C'era anche un coinvolgimento allora dell'industria italiana attraverso Montedison nella ricerca e nello sviluppo di questi materiali compositi e avanzati. Oggi sono diventati dominio comune nella nautica, sono passati quasi 20 anni, è un qualcosa che è rimasto nel patrimonio. Quello che è rimasto invece della Coppa America è, come dicevi tu appunto, questo essere comunque un trofeo, il trofeo velico più antico del mondo, ma direi il trofeo sportivo più antico del mondo. Non dimentichiamoci, la prima Coppa America si è corsa nel 1851, per cui prima addirittura dell'inizio dell'Olimpiade dell'era moderna, e quindi appunto questo trofeo velico che comunque ha delle caratteristiche sue proprie, insomma non è una regata velica e basta, come menzionavi prima ci sono comunque dispute in tribunale, insomma è un qualcosa di un po' particolare, di un po' sui generis, ma proprio per questo molto affascinante. Australia 2 pulled away to beat the US and win at last the America's Cup. President Ronald Reagan welcomed both crews to the White House after the dramatic series. I want to take this opportunity to congratulate the crews of both vessels. You all did an outstanding job. Direi che un altro tratto comune che si conserva da allora e che caratterizza da sempre la Coppa America è proprio la litigiosità, no? L'alta litigiosità dell'ambiente velico quando c'è da disputarsi quella Coppa. Nell'83 ricordo che addirittura si immaginavano spie subacquee che andavano appunto a spiare questa chiglia rivoluzionaria di Australia 2 per carpirne i segreti. Dennis Corner, lo skipper americano che impugnava carte bollate per mettere fuori gioco gli australiani. Oggi, la situazione ce l'abbiamo sotto gli occhi, la disputa legale tra Oracle e Alinghi, che sembra ora aver trovato un compromesso, si dovrebbe tornare in acqua a febbraio prossimo per giocarsi la 33esima Coppa America, ma insomma Tommaso, tu che questo ambiente lo conosci benissimo, perché si preferisce spesso dibattere nelle aule dei tribunali piuttosto che in mare? Ma guarda, adesso stiamo facendo un quadro della vela che, se vogliamo, potrebbe essere un po' demoralizzante, un po' sconsolante. Non è proprio sempre stato così, ci sono stati alcuni esempi, hai menzionato appunto quello della chiglia con le ali che comunque non finì se non marginalmente in tribunale, poi c'è stata la disputa grossa tra Dennis Conner e Team New Zealand e adesso quest'ultima disputa, però diciamo che normalmente le regate si corrono in mare, non dimentichiamoci la Coppa America normalmente è corsa da questi grandi tycoon del mondo della finanza e del mondo economico in generale, per cui adesso vediamo contrapposti appunto Bertarelli e Larry Ellison, che sono due personaggi che non serve insomma aggiungere altro, per cui è normale che poi a certi livelli diventi anche una sfida personale in cui l'elemento sportivo insomma fa parte del gioco, però noi tutti ci auguriamo che questa disfida a livello personale, quindi nelle aule dei tribunali, venga a finire presto, insomma si torni in mare, anche perché poi è la volontà di tutti, compresi questi grossi personaggi, comunque di fare una bella regata e di divertirsi in mare. Sotto questo profilo la Louis Vuitton Trophy direi che è un esempio positivo, no? Nel senso che si è parlato soprattutto di regate, di mare, di successi, di sconfitte, anche perché c'è una grande omogeneità tra le barche, quindi questo permette di far emergere poi le qualità effettive degli equipaggi. Assolutamente, diciamo che è la più sportiva delle sfide all'interno, diciamo, del panorama della Coppa America, anche se Louis Vuitton non, diciamo, è sempre stata solo preparatoria alla Coppa America, serviva in effetti a selezionare gli sfidanti per la Coppa America vera e propria. Però dicevi tu appunto che le barche erano uguali, è vero, se abbiamo usato le barche della vecchia Coppa America ed è, se vogliamo, anche un po' paradossale che poi alla fine di un ciclo si parla già comunque di cambiarle queste barche che furono appunto messe in acqua per la prima volta negli anni 90 con il Moro di Venezia, sono passati quasi 20 anni, si parla di sostituirle, però proprio perché sono arrivate alla fine di un ciclo non si vedono più grandi differenze tra le barche, gli equipaggi hanno imparato a conoscerle, a manovrarle, per cui il livello di sport e di spettacolarità è grandemente riconosciuto e aumentato proprio utilizzando questo tipo di barche. Louis Vuitton ha fatto un ottimo lavoro, ha voluto organizzare quest'anno 2 eventi, il primo a Auckland nelle acque della Nuova Zelanda, il secondo qui a Nizza nel Mediterraneo, si parla già di 3-4 eventi per l'anno prossimo, sicuri nel calendario per il momento sono Auckland e la Maddalena, per cui nuovamente le acque e i velisti italiani impegnati in prima linea, per poi finire con una tappa probabilmente negli Stati Uniti e una a Hong Kong o Dubai. Però la formula è molto bella, è una formula che premia appunto il valore sportivo degli atleti, indipendentemente dalle barche usate. Le barche usate vengono fornite dal comitato organizzatore e vengono a rotazione assegnate ai vari equipaggi, per cui tutta la parte, se vogliamo così, tecnica di tecnologia viene messa da parte ed è un vero e proprio scontro sportivo, una sfida sportiva, per cui ha una particolare valenza. Navigando tra vela e calcio, tu nell'ultima Coppa America sei stato anche il tattico di Sciosciolosa, no? Questa avventura sudafricana, questa imbarcazione sudafricana che ben si è comportata ottenendo anche qualche vittoria a sorpresa. Avendo lavorato in un team sudafricano, anche se dalle forti connotazioni italiane, pensi che il Sudafrica supererà l'esame della Coppa del Mondo di Calcio 2010? Guarda, i sudafricani sono un popolo pieno di risorse, io ho imparato a conoscerli appunto nell'ultima edizione, ma già c'erano dei sudafricani in barche che partecipavano al Giro del Mondo, alla Coppa America, e loro si appassionano a determinati sport, come hanno fatto in passato, e nel giro di pochi anni arrivano ai vertici, sono comunque un paese molto libero, molto sano, con grandi spazi, per cui diciamo che fare dello sport è forse più facile che da noi in Europa, dove siamo troppi e gli spazi non sono così generosi, per cui io immagino di sì, penso che il Sudafrica ce la farà quantomeno a fare una figura più che meritevole. Bene, questo è l'augurio per il Sudafrica del calcio. Per Tommaso Chieffi invece l'augurio è quasi scontato, quello di rivederti presto in mare, magari nella 34esima America's Cup, magari a bordo di Azzurra, no? Speriamo, questo è l'augurio che ci facciamo tutti, me compreso in primo, insomma, io, come sai, i velisti sono bravi quanto la loro ultima regata, per cui siamo tutti quanti sempre sotto esame, quindi dobbiamo meritare man mano che andiamo avanti la nostra posizione, il nostro ruolo a bordo, per cui insomma mi auguro che possa andare avanti così. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Roberto Scaltritti in regia, vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it e scriverci all'indirizzo mail abbordocampo@radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.